giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Lignano Sabbiadoro gli stabilimenti balneari cominciano ad aprire i battenti, la stagione non è lontana, ma intanto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Comune non ha ancora chiarito come intende procedere sulle concessioni. Un albergatore vincitore del ricorso chiede che il bando venga riproposto per la prossima stagione. Ricorre oggi la giornata mondiale per le vittime dell'amianto. In Friuli Venezia Giulia sono ancora circa 200 l'anno le morti correlate all'asbesto, ma la regione è considerata un esempio virtuoso nel campo della rimozione e dello smaltimento di questa sostanza. Già ieri un'iniziativa a San Canzian di Sonzo. E oggi è anche la giornata contro gli infortuni sul lavoro, che nella nostra regione nei primi due mesi di quest'anno sono aumentati di quasi l'8%. Spazio a tendenze geopolitiche, rischi e opportunità per le imprese sui mercati esteri nella giornata di Global CyberSec 2025 organizzata dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Tra i focus del convegno di oggi a Trieste, la sicurezza informatica e il suo ruolo nell'internazionalizzazione delle imprese. Tra i rischi più recenti, la clonazione della voce umana. Non solo cinema, non solo proiezioni nelle giornate udinesi del Far East Film Festival, giornate in cui il capoluogo friulano di fatto è gemellato con l'estremo oriente. Nel GR le ricadute anche economiche sulla città di questa manifestazione che chiuderà i battenti il 2 maggio. Sono più di 800 i giovani delle scuole primarie e secondarie da tutta la regione che oggi partecipano alla quarta edizione dell'evento Tagliamo la scuola, in calendario a Villa Manin, a Passariano di Codroipo. Obiettivo dell'iniziativa, l'inclusività raggiunta grazie a una variante del rugby, a una manifestazione che consente a tutti di segnare punti. Nello sport alle 18.30 al Friuli Udinese Bologna, alla fine del campionato mancano ancora 5 gare e le ultime 5 hanno tutte visto i friulani sconfitti. Le assenze di Touven incidono, ma non possono essere un alibi, dice il tecnico Runiaic. Basket, a Udine ha festeggiato nuovamente ieri sera la promozione in A1, una festa scattata al Carnera dopo la partita contro Torino, vinta per 108-101. In A2 ha vinto anche Cividale Orzi Nuovi per 75-65. Oggi in A1 la sfida tra Cremona e Pallacanestro Trieste. È lunedì 28 aprile 2025, sono le 7:20 minuti e 40 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica, il cielo è sereno su tutta la regione. Le temperature alle 6 a Trieste 15,5 gradi, vento a 28 km orari da est-nord-est, Bora. Udine 13,5 gradi, Pordenone 10,5, Gorizia 10, Forni di Soprettolmezzo 6,5, Piancavallo 4 gradi, Sappada e Tarvisio 3, Monte Zoncolan 4,5, Lussari 2,5, a Grado 16 e a Lignano 15,5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in genere sereno su pianure e costa, poco nuvoloso sul resto della regione, con maggiore nuvolosità al mattino sul Tarvisiano e nel pomeriggio sui monti, dove non è esclusa del tutto la possibilità di qualche locale breve pioggia. Al mattino sulla costa e sulle zone orientali Sofia Raborino, bora moderata in calo, nel pomeriggio brezza. È atteso nei prossimi giorni, se non per oggi stesso, un intervento ufficiale del Comune di Lignano dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la revoca dei bandi e la proroga delle concessioni balneari per il 2025. Intanto c'è incertezza per la presidenza di Lisagest. A oltre 3 settimane dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la revoca del bando sulle concessioni balneari, il Comune di Lignano non ha ancora indicato come intende procedere. È stato l'albergatore Luigino D'Ariola a vincere il ricorso alla giustizia amministrativa, lui che da 20 anni vorrebbe prendere in concessione una parte di spiaggia, sfidando quella che definisce una lobby. Io non riesco neanche a capire perché 30.000 concessionari, non so come possono, avere un potere assoluto sul governo in generale dell'Italia e sulle varie amministrazioni locali. Lo stesso Dario riconosce che ormai è troppo tardi per riaprire il bando per questa stagione, ma chiede che sia riproposto uguale per la prossima. Di opinione diverse i rappresentanti dei balneari, che si aspettano un bando diverso, più favorevole a loro. Salvatore Sapienza del sindacato SIB. La speranza è che si tenga conto appunto della futura uscita del decreto indennizzi, ma soprattutto anche del PUD regionale, il piano utilizzo arenile. Sarebbe inutile andare a fare dei bandi per le nuove concessioni con le regole vecchie. Altro tema caldo è la questione Lisagest, la principale concessionaria pubblico-privata, che in assemblea mercoledì è chiamata a rinnovare i vertici. In corsa per la presidenza Massimo Brini, consigliere comunale di Forza Lignano, e Roberto Falcone, coordinatore locale di Fratelli d'Italia. Una vicenda che potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità della giunta comunale. Intanto in questi giorni molti hanno approfittato di ombrelloni e sdraio gratuiti in attesa dell'apertura di una stagione che appare in linea con quella passata, nonostante timori per una recessione legata ai dazi. Luigi Sutto, vicepresidente di Confcommercio Lignano. Le ultime indagini che abbiamo fatto con H-Benchmark dicono che siamo a un più 0,3, quindi sostanzialmente sui livelli dell'anno scorso. Non abbiamo ancora la percezione che ci siano dei problemi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 20ª edizione per la giornata mondiale per le vittime dell'amianto. Per l'occasione alle 10 in piazza Maestri del Lavoro a Pordenone verrà deposta una corona di fiori e di alloro presso il monumento ai caduti sul lavoro a ricordo delle vittime. La manifestazione si sposterà poi presso una delle aule didattiche del vicino liceo scientifico Leopardi Maiorana dalle 10.50 con studenti e insegnanti per un incontro informativo e un dibattito sul tema amianto, ambiente, lavoro e salute, moderato dallo storico e saggista Sergio Sghedoni. Friuli Venezia Giulia, pur avendo registrato nel 2024 un'incidenza ancora alta di circa 200 decessi per patologie legate all'amianto, si conferma un modello virtuoso nella gestione delle bonifiche. La regione ha stimato circa 160.000 tonnellate di amianto, soprattutto coperture edilizie, con picchi del 30% in aree industriali. Sono dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto e grazie all'archivio regionale Amianto, che permette una tracciabilità capillare dei manufatti tramite tecnologie avanzate come la mappatura con i droni, ha migliorato l'individuazione dei siti contaminati, ha inoltre semplificato le procedure per l'autorimozione e stanziato contributi economici, oltre 18 milioni tra il 2017 e il 2023, altri 2 milioni e 8 previsti per il triennio 24-26. L'amianto continua a causare oltre 200.000 morti l'anno nel mondo, 7.000 in Italia solo nel 2024, nonostante la messa al bando risalga al 1992. E la giornata per le vittime dell'amianto è stata celebrata già ieri dal comune di San Canzian di Sonzo con la premiazione di un concorso riservato agli studenti della scuola media. Nevia Pacco, vedova che come tante donne isontine ha visto il marito spegnersi stroncato dall'amianto, depone i fiori al monumento dell'artista David Cei che ricorda la tragedia. Il sindaco di San Canzian di Sonzo, Claudio Fratta, affiancato dal collega di Ruda, Franco Lenarduzzi, e dal consigliere delegato all'amianto, Franco Malaroda, traccia i contorni del progetto Polvar, la polvere mortale che ha distrutto migliaia di famiglie. Un progetto rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che hanno disegnato la loro visione dell'amianto. La giuria presieduta dal giornalista Roberto Kovacs ha attribuito il primo premio dell'opera alla studentessa Noemi Cari. Ho disegnato un cuore che soffre per la tragedia dell'amianto e quindi l'ho fasciato. Sopra il cuore c'è il caschetto perché tante persone della Fincantieri sono morte e hanno sofferto anche i loro familiari. La giovane vincitrice ha lavorato sotto la guida della professoressa d'arte Rosella Virgin. Questo progetto ha fatto riflettere soprattutto i ragazzi sulla pericolosità dell'amianto, su questo problema che anche coinvolge le famiglie di questi ragazzi, e ha passato il testimone sulla memoria delle vittime dell'amianto. Il disegno, riprodotto su 4 targhe in ceramica, verrà affisso nei cimiteri della città in cui riposano le vittime dell'amianto. Per l'associazione Esposti Amianto, Davide Bottegaro. Trovo molto importante che il tema dell'amianto entri nelle scuole, perché sensibilizzare i giovani su questo, che è stata una tragedia che ha coinvolto tutti noi, debba in qualche modo essere una lezione per il futuro. Se noi costruiamo attraverso la sensibilizzazione dei giovani una cultura del lavoro sicuro, avremo forse vinto questa lunga battaglia contro l'amianto. San Canzian di Sonzo, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. La giornata mondiale contro l'amianto coincide con quella sugli incidenti sul lavoro. Gli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia fra gennaio e febbraio del 2025 sono stati 200 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, 2527 in totale, con un aumento del 7,9%. È il secondo incremento più significativo in Italia, subito dopo quello del Trentino, mentre a livello nazionale gli infortuni sono scesi del 3,5%. I dati sono stati diffusi dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Quanto alle malattie professionali nella nostra regione nei primi due mesi dell'anno sono diminuite del 17,5% a fronte di un aumento a livello nazionale che sfiora il 6%. Una segnalazione di servizio poco fa: a Trieste è stata chiusa al traffico una sezione di via Giulia all'altezza del Civico 9 in corrispondenza di via Zovenzoni a causa della perdita di olio da parte di un mezzo pesante. La ripresa della circolazione è prevista non appena sarà stato ripulito il manto stradale nel giro di poche ore. Glocal CyberSec 2025, tendenze geopolitiche, rischi e opportunità per le imprese sui mercati esteri, è l'evento della Camera di Commercio della Venezia Giulia in cui sarà approfondito il ruolo della sicurezza informatica e dell'analisi dei dati aziendali nel percorso di internazionalizzazione delle imprese. Previsto un focus sull'area balcanica e sugli strumenti per supportare le imprese regionali nei mercati esteri con riferimento alla cybersicurezza. Appuntamento a Trieste alla Camera di Commercio in Piazza Borsa alle 9. Tra gli interventi quello di Gianluca Foresti, docente di informatica all'Università di Udine, a cui abbiamo chiesto una sintesi dell'intervento. Si parlerà di consapevolezza dei rischi della cybersicurezza e formazione, che è una delle risposte che si può dare, ovviamente che si deve dare, alle problematiche di sicurezza informatica. Parleremo in primis di quelli che sono le vulnerabilità dei dispositivi e dei sistemi, in primis quelli a basso costo, i dispositivi IoT cosiddetti, e parleremo anche delle vulnerabilità nel momento in cui non si fanno gli aggiornamenti software che vengono richiesti e demandati. In ultimo si porrà l'accento su quello che è il problema delle aziende, in primis quando hanno degli aggiornamenti nei loro dispositivi di rete che non vengono fatti nel momento in cui, ad esempio, la Polizia Postale o l'Agenzia Nazionale della Cybersicurezza segnala delle vulnerabilità che sono state identificate. Il problema della consapevolezza è uno dei grossi problemi che in questo momento abbiamo per dare una risposta alla sicurezza informatica. Quando uno arriva a capire che ci sono dei punti deboli, delle vulnerabilità, chiaramente alza l'asticella dell'attenzione e non cade facilmente nei tranelli. L'altro problema è quello dell'intelligenza artificiale utilizzata in maniera non corretta, quindi dagli hacker, dagli attaccanti che sfruttano delle vulnerabilità dei sistemi, e a questo punto, ripeto, la consapevolezza è la prima arma che noi abbiamo per poterci proteggere. Una delle ultime vulnerabilità che si stanno riscontrando è quella della clonazione della voce, che appunto con il sistema di intelligenza artificiale sta raggiungendo dei livelli veramente alti. Noi, quando sentiamo una voce a noi vicina, a noi comune, tendiamo a abbassare la guardia, e questo è uno degli aspetti su cui chiaramente si sta lavorando. Non è pensabile nel futuro immaginare che i singoli cittadini si possano difendere, bisogna arrivare a costruire dei sistemi automatici che siano in grado di proteggerci, e questa è la sfida del futuro. A Pordenone nel pomeriggio si terrà la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dopo le consultazioni che hanno visto le elezioni a sindaco di Alessandro Basso. La riunione in calendario alle 17:30. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, il giuramento del sindaco, la comunicazione in merito alla nomina dei componenti della Giunta Comunale. Dal 24 aprile fino al 2 maggio Udine è la capitale italiana del cinema dell'Estremo Oriente. È in corso infatti il Far East Film Festival con decine di proiezioni e di incontri. Le ricadute sulla città in termini anche economici di questa manifestazione. Non solo cinema in questi giorni a Udine con il Far East Film Festival. Sono 155 gli appuntamenti che fanno da cornice all'evento in una città che è diventata un'appendice dell'Asia orientale per l'atmosfera, gli incontri, i colori e i mercatini. Un festival nel festival che nel corso degli anni ha saputo diventare un avamposto dell'Asian Style, dove nella centralissima via Mercato Vecchio gli stand hanno offerto oggettistica, abbigliamento, gioielli e cibo, tutti rigorosamente provenienti dal paese del Sol Levante. mi piacciono i kimono, mi piacciono i colori, mi piace molto la cultura anche orientale, e ho la figlia che è appassionata anche di manga, di tutto ciò che è Oriente, e quindi siamo venuti a fare un giro a vedere. Operatori soddisfatti per l'interesse dimostrato da visitatori e appassionati. Io disegno, faccio illustrazioni e in questo caso ho portato qua delle illustrazioni anche a tema Giappone, anime, manga, quindi sia tradizionale che moderno. Seguitissimi i laboratori, le degustazioni, show cooking giapponesi con la brillante cuoca di Osaka, Mami Hamada. Ho voluto presentare un piatto che si chiama onigiri, è proprio base di riso bianco, un piatto che da tempo di samurai portavano come pranzo a sacco. Una pietanza che ora più di qualcuno tra i presenti proverà a cucinare seguendo i preziosi consigli. Noi a casa già avevamo tentato più volte di cucinare gli onigiri con mia figlia, quindi è stato fantastico perché abbiamo capito un po' di trucchetti e niente, continueremo a giapponesizzarci anche noi. Un vero e proprio viaggio in Oriente anche attraverso lo sport, con l'esibizione di judo al giardino Loris Fortuna e un seminario di kyudo, l'antico tiro con l'arco giapponese. Giorgio Lucchesi, presidente dell'associazione italiana kyudo. Dovrebbe servire a calmare, a trovare la forza interna e per dirigere l'energia nel modo corretto, e quindi ha anche degli sviluppi salutari verso il praticante stesso. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Tolmezzo nel pomeriggio, in occasione di una visita dall'assessore regionale alla salute Riccardi, si terrà un flash mob di protesta alle 16:30 nel piazzale delle comunità di montagna contro il piano di esternalizzazione dei servizi dell'ospedale. Gli abitanti della montagna non sono cittadini di serie B, si legge nel comunicato che annuncia l'iniziativa, e hanno lo stesso diritto alla salute degli altri. Nel comunicato si ribadisce che il flash mob è stato organizzato per ribadire che la sanità pubblica è un diritto. Quarta edizione per l'evento Tagghiamo la scuola, a cui parteciperanno più di 800 ragazzi delle scuole primarie e secondarie da tutta la regione. Appuntamento a Passariano di Codroipo, a Villa Manin, dalle 9. La manifestazione dà volto e spazio a una versione del rugby che fa dell'inclusività una sua caratteristica peculiare. Ne abbiamo parlato con Riccardo Sironi, direttore tecnico della società sportiva Overbag Line Rugby, promotrice dell'iniziativa. Quest'anno abbiamo effettuato un progetto scolastico dove abbiamo inviato agli istituti comprensivi il nostro progetto di fare 4 ore per ogni classe per insegnare il tag rugby, ovvero sia la versione dolcificata del gioco del rugby. Privo di contatto, c'è una cintola con delle bandierine ai lati e per fermare il possessore di palla bisogna taggarlo invece che placarlo. Così nelle scuole non ci sono contatti tra i ragazzi, giocano tutti, si divertono. L'iniziativa è pensata per diffondere il rugby oppure per diffondere i valori di quelli che sono un'attività sportiva? Lavoriamo per sostenere i ragazzi che sono in difficoltà, questa è una disciplina che noi attuiamo nelle scuole e vediamo che i ragazzi ne traggono beneficio. E in più adesso con l'assessore allo sport del comune di Udine stiamo vedendo per iniziare da settembre un altro progetto dove faremo giocare i ragazzi che solitamente non giocano perché non sono idonei a partecipare a partite di campionato o di tutti i sport proprio. Io vado in giro nelle scuole e vedo ragazzi che non partecipano, che non fanno attività sportiva perché hanno delle difficoltà. Col gioco del tag rugby questi ragazzi giocano e si divertono, sono coinvolti. Il gioco che noi faremo oggi non prevede una classifica, non prevede risultato. I ragazzi giocheranno solamente per il puro e mero piacere di giocare. Quindi abbiamo tolto la competizione, abbiamo tolto, e i ragazzi giocano senza l'assillo del risultato e con questo traggono molto beneficio. Lo storico Raul Pupo presenterà il suo libro Italianità Adriatica a Trieste alla libreria Lovat alle 18. Fra le pagine le perdite di quegli italiani che nel 45 contavano non solo le perdite sul campo di battaglia, le lunghe prigionie, i bombardamenti e gli orrori della guerra, ma anche la perdita della terra natia in quella che viene definita la catastrofe dell'italianità adriatica. In dialogo con Pupo, Patrick Carlsen, docente di storia contemporanea all'Università dell'Università di Trieste, e Fabio Todero, ricercatore dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. In occasione dell'80° anniversario della liberazione a Trieste, al Museo della Guerra per la Pace Diego De Enriquez, si terrà il reading teatrale La morte esalta la vita, Mario Maovaz, un rivoluzionario sentimentale. Appuntamento alle 18 e alle 20:30. Antifascista, dalmato di nascita e triestino di adozione, Maovaz fu fucilato il 28 aprile 1945 a Opicina con altri detenuti politici. Sono due donne che hanno messo al centro della loro vita un forte impegno per la giustizia e la legalità, le nuove Giuste, a cui saranno intitolati due ulteriori alberi della memoria. Oggi la prima a Brugnera, con l'intitolazione per l'avvocata e attivista indiana Flavia Agnes. L'appuntamento nel parco di Villa Varda alle 10:30, dove è prevista la partecipazione di un centinaio fra docenti, operatori, studentesse e studenti di 4 classi delle scuole primarie di Tamai, Maron e Brugnera, che in questi mesi hanno preso parte al progetto. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Allo Stadio Friuli alle 18:30 l'Udinese giocherà contro il Bologna. Per i friulani l'imperativo è vincere o quantomeno evitare ancora una sconfitta dopo le 3 di fila già subite. La salvezza è importante, ma non va dimenticato l'orgoglio, soprattutto quello dei tifosi friulani che, rivolti ai giocatori dell'Udinese, ricordano con uno striscione che le ferie non sono cominciate. Mancano ancora 5 gare e le 5 precedenti sono state soltanto sconfitte per la squadra di Runjajc. Le assenze di Toven e Luca sono un fattore, ma non possono essere un alibi, lo dice il tecnico che contro il Bologna deve evitare il terzo KO di fila in casa. Rossoblù da sogno in questo campionato, finalisti in Coppa Italia e capaci di conquistare 32 punti da gennaio ad oggi, meglio di Inter e Napoli. Italiano non avrà a disposizione Ndoye, infortunato, ma a dover ridisegnare difesa e attacco sarà Runjajc. Con Biol squalificato, i tre davanti ad Okoye dovrebbero essere Cabasele, Solé e Camara. In attacco Bravo e Davis, anche se è cresciuta la possibilità per Sanchez di essere titolare. Più che fermare il Bologna, l'obiettivo dell'Udinese è quello di ritrovare la sintonia con i propri tifosi e un gol che manca da 270 minuti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket al Pala Carnera, ieri sera la grande festa per il ritorno dell'APU Udine nella massima serie, festa celebrata con la vittoria dei friulani contro Torino per 108-101. Cividale ha vinto a Orzinuovi per 75-65 e affronterà Forlì al primo turno playoff con il vantaggio del fattore campo, e stasera in A1 alle 20 Cremona Pallacanestro Trieste. La coppa alzata dal presidente Pedone e dal capitano Alibegovic. Udine festeggia il ritorno in Serie A dopo 16 stagioni davanti al suo pubblico, rifiutandosi di perdere anche in una partita inutile per la classifica. 30 vittorie e 8 sole sconfitte, un'annata da record che si conclude con il Carnera che diventa discoteca per una notte, una festa durata fino a tardi per celebrare una cavalcata che rimarrà nella storia del basket friulano. Nell'ultima di campionato contro Torino serve un tempo supplementare, partita allegra con difesa bianconera rilassata, ma dopo essere scivolata sotto di 13 la squadra di Vertevati, meritatamente nominato allenatore dell'anno, decide di ingranare le marce giuste e con i gregari Carotti, Ambrosini e Pullazzi la ribalta 108-101 e i tappi di spumante possono saltare. Festeggia anche Cividale che vince a Orzinuovi e vola ai playoff da quinta, cioè con il vantaggio del fattore campo. Contro una squadra che non aveva nulla da chiedere al campionato, i lucani accelerano nel terzo periodo ma subiscono il ritorno degli orceani allenati da Franco Ciani nell'ultimo. Serve un ottimo Berti ma soprattutto i canestri di rilievo per scacciare la paura. 75-65, che significa sfida contro Forlì con le prime due partite in casa ed eventuale bella sempre al Palagesteco ai quarti di finale. Anche per i gialloblu è la miglior stagione di sempre in A2, 46 punti e 60% di vittorie. In A1 intanto, grazie alla sconfitta di Tortona, playoff matematici per Trieste che gioca questa sera a Cremona. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket, Serie A2 femminile. Nello spareggio di ieri, Futurosa Trieste è stata eliminata da San Giovanni Valdarno, che ha vinto per 64-59, che così accede alle semifinali. Pallanuoto in A1 maschile, gara 2 di semifinale scudetto per la squadra labardata che affronterà la N Brescia. Si gioca la Bruno Bianchi con inizio alle 19. I giuliani devono assolutamente vincere per allungare la serie alla bella. Dobbiamo lasciarci alle spalle quanto accaduto a Brescia, spiega l'allenatore Maurizio Mirarchi. Scendiamo in gara con l'obiettivo di guadagnarci gara 3. Per farlo servirà la stessa compattezza e lo stesso carattere che abbiamo dimostrato a Monpiano. In 7.500 per 30 posti, migliaia di candidati per un impiego in regione. In futuro l'organico salirà di altre 400 unità. È il titolo principale della prima pagina del Piccolo. Le prove il 6 e 7 maggio. La graduatoria durerà 2 anni. Si tratta di 20 posti a tempo indeterminato per assistenti amministrativi economici, retribuzione annuale lorda di 24.000 euro, e 10 posti di specialista amministrativo economico, 27.470 euro lordi annui. La foto centrale è per la Muja Longa sul Mar, la grande corsa di ieri a Muggia. Le pagine 2 e 3 di primo piano sono appunto dedicate al concorso in regione, posto fisso, 7.500 candidati. Nella pagina di Balcani un articolo sulla nuova normativa introdotta in Slovenia per l'accesso degli stranieri. Mancano lavoratori, Lubiana apre le porte agli stranieri. La legge mira a semplificare i requisiti anche per chi opera nei settori della ricerca e dell'educazione. La foliazione su Trieste apre con la futura dislocazione della scuola per interpreti e traduttori. La struttura universitaria, oggi sistemata nel Narodni Dom di Via Filzi, entro i prossimi 7 anni passerà all'ex Gregoretti II, all'interno del comprensorio di San Giovanni. L'edificio di Via Filzi tornerà materialmente nella disponibilità della comunità slovena. Anche entrambe le edizioni del Messaggero Veneto aprono con il concorso regionale per i posti di specialisti, assistente amministrativo economico. In condivisione poi titoli sui friulani che sabato hanno assistito ai funerali del Papa a Roma. La fotonotizia dell'edizione di Udine per la promozione della squadra di basket di cui vi abbiamo parlato poco fa. Capo cronaca interno, i 1700 alpini friulani che dal 9 all'11 maggio sfileranno a Biella per la adunata nazionale. La riconsegna delle statue che erano state trafugate dalla chiesa di San Lorenzo a Sauris nel 1969 apre l'edizione di Udine del Gazzettino. In fotonotizia si legge del piano della regione di abbattimento di 13.000 gazze a fronte dei 90.000 euro di danni causati negli ultimi 5 anni nelle colture di mais, soia, ortofrutta e nelle vigne, che hanno comportato 170 richieste di indennizzi. Spazio poi alla crescita del 7% con 2.200 casi di malattie professionali in regione che sono stati registrati lo scorso anno. Sulla prima pagina dell'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, la foto centrale è dedicata alla manifestazione goriziana Contea, il titolo Sbandieratori e giullari per il compleanno della città. All'interno le pagine sul capoluogo aprono sulle tariffe della Tari, bollette dei rifiuti più leggere, calo del 4% per le famiglie e del 2% per le imprese. Approda oggi in Consiglio Comunale il piano economico-finanziario per la definizione delle tariffe. Nell'arco di quest'anno il costo complessivo dei servizi sfiorerà i 7.200.000. E più avanti, Contea conquista il cuore di Gorizia con sbandieratori, guerrieri e giullari. L'apertura delle pagine su Monfalcone, indennità e gettoni diventano più ricchi, spesa per la giunta comunale rincarata del 59%. Aumenti già scattati, il sindaco passa da 5.460 a 6.700 euro lordi, assessori a quota 3.200, raddoppia la cifra per i consiglieri. Nel paginone culturale il Piccolo pubblica uno scritto inedito di Mario Rigoni Stern sull'ecologia. La fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto è per la promozione della squadra di calcio in eccellenza. Capocronaca interno, la città dello sport e i progetti del neosindaco Basso per la realizzazione di un nuovo stadio a fronte delle iniziative attuali di manutenzione del centro dei Marchi e della palestra di Rorai Grande. Più avanti si legge un servizio sui 107 pensionamenti previsti dal 1 settembre negli istituti scolastici del Friuli Occidentale. Al momento però si tratta, come indicato dall'ufficio scolastico, di numeri provvisori al vaglio dell'INPS sulle cessazioni dal servizio. Il Gazzettino di Pordenone apre sul piano sicurezza del neosindaco Basso, che prevede iniziative contro le baby gang e il presidio fisso di agenti a Casina Liberty e zone sorvegliate speciali come la stazione e altre aree residenziali. Da Zano Decimo la caccia al vincitore di 600.000 euro al Super Enalotto di sabato scorso, registrato in un'edicola del Posto. Prima giornata per gli appuntamenti dell'anteprima festival della 10ª edizione del Trieste Book Fest, l'isola che non c'è, per una settimana, da oggi al 4 maggio, e poi, con un appendice dal 14 al 18 maggio, la città si trasformerà in un arcipelago di storie e di pensieri, con 45 eventi che vedono protagonisti 42 autori, italiani e stranieri, in dialogo con 30 ambasciatori della cultura locale, ospitati in 13 diversi luoghi. Tre i filoni previsti dedicati a creatività, talento e immaginazione, con un confronto fra immaginario umano e artificiale in collaborazione con il Festival Scienze e Virgola, e un focus dedicato agli scrittori di lingua tedesca, slovena e croata e al ruolo dei traduttori. Primo appuntamento la presentazione della raccolta di saggi Astronauti, scrittori di frontiera italiani e sloveni, da parte dell'autore Miran Kosciuta, in dialogo con Elvo Guagnini al Museo Letz, Letteratura Trieste, alle 18, e sempre alle 18 all'Antico Caffè San Marco, l'autrice Rachele Ferrario dialoga con Federica Luser sul suo libro La Contesa su Picasso, raccontando la storia vera di Palma Bucarelli e Fernanda Wittgens e la loro guida dei musei più importanti d'Italia. Ezio Giuricin e Daniele Kovacic, curatore del volume Esodo, storia di un percorso, interverranno alla sua presentazione a Trieste, all'auditorium della Casa della Musica in via dei Capitelli, alle 18. L'opera si propone come un manuale di approfondimento e guida del sito di esposizione multimediale interattiva Espoes, dedicato alla storia dell'Esodo e delle foibe. Si intitola Gli innamorati di Piazza Oberdan, il libro di Christian Klinger, che sarà presentato dall'autore nella sala museo della Società Ginnastica Triestina alle 18. Fra le pagine la storia di Pino Robusti e, nella vicenda della ginnastica triestina, il destino di Silvio Spagnol, deportato nel 1944 a Dachau, e del socio Alessandro Servadei, inghiottito nei lager vicino a Berlino nel 1943. 10 modi per morire felici è lo spettacolo gioco in cui 10 spettatori hanno la possibilità di sperimentare una nuova vita, dalla nascita alla morte, compiendo scelte che influenzano l'andamento dello spettacolo, con un solo obiettivo: morire felici. Come fare? Sopravvivere da soli o unirsi agli altri? Scommettere e forse perdere tutto o essere parsimoniosi? Rispettare la legge o abbandonarsi all'illegalità? Affidarsi al destino, impersonato dal resto del pubblico, o al calcolo? Appuntamento a Trieste, al Teatro Miela, alle 20.30. In occasione dell'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo, Monica Emanuelli, storica dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, presenterà i risultati di una ricerca sulla lotta partigiana e sull'insurrezione del 28 aprile del 1945 a Sacile. L'incontro a Palazzo Ragazzoni, a Sacile, alle 18. Fiscalità, quale ruolo per l'Unione Europea? È l'evento che sarà condotto da Pasquale Pistone, docente di diritto tributario all'Università di Salerno, in cui si discuterà del ruolo dell'Unione Europea in materia di fiscalità. Appuntamento a Udine, nell'auditorium del Dipartimento di Scienze Giuridiche, in via Tomadini, alle 15. Quinta edizione della Scuola della Montagna Dolomiti Friulane, in calendario a Barcis da oggi al 3 maggio. Focus della settimana: innovazione digitale e intelligenza artificiale in montagna. Previste attività didattiche frontali, laboratori pratici, incontri con operatori locali ed escursioni formative sul territorio. L'inaugurazione alle 9 nella foresteria del comune. Uno sguardo ai programmi radiofonici odierni della nostra sede. Dopo il giornale Radio Flash delle 11, il consueto appuntamento con la rubrica in friulano, oggi sulla diminuzione delle istituzioni no profit in regione. Le 10.600 attive in Friuli Venezia Giulia occupano oltre 20.000 persone. Alle 11.20 Peter Pan, alle 11.55 Ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z. In questa puntata si cercherà di capire se il rapporto tra adulti e adolescenti con la mediazione dell'intelligenza artificiale stia cambiando e in che modo. Sono le 7:52 minuti. L'assistenza tecnica è stata curata per questa edizione da Mauro Cumin e da Eugenio Giuffrida. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza. Il flash e quindi l'edizione delle 12:30. Potete seguire gli aggiornamenti sui nostri profili Twitter, Facebook e Telegram e sulla pagina web. Per raggiungerla basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza, buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.